Pezzo si chiamava Poison Heart, appunto dei Ramones, che abbiamo suonato per ricordare una cara amica che purtroppo ci ha lasciato. Adesso non voglio essere troppo autoreferenziale, ma l'amica dello stanzone, anzi una delle amministratrici dello stanzone, Chiara Del Bianco, purtroppo ci ha lasciato così improvvisamente. Allora ascoltiamo appunto una canzone a lei cara. E però non possiamo stare troppo tristi così in un venerdì sera, e per cui quando è stato? 3 settimane fa vi avevo fatto ascoltare Young Signorino, che avevo appena scoperto su Facebook e non avevo capito cosa fosse, tuttora non capisco che cos'era, e però Dolce Nera ha fatto una cover ascoltabilissima. Alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto ra pa pa pa pa pa alfa alfa alfabeto i a i a i a i a alfa alfa alfabeto i a i a i a e i a e i e i a a a ra pa pa pa a a a a a a a a i a i a i a i a a a a a a a a bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu shke fuma fuma fuma rido ito e a ne ride ride ride ride alfa alfa alfabeto rari rari rari rari ascolta ascolta ascolta ascolta su dove vuoi passo a letto mia mamma mi crede pazzo canto canto canto canto la la la la la la sto indicando con il dito la la la la la la la schiaffeggio mentre ride mangio mangio caramelle Africa buon vino casso cucu cucu cucu cucu non mi piace questa tipa na na na na na na na na voglio la tipa del tipo sì l'ho già lasciata incinta parla parla parla parla pa pa pa pa pa pa pa sì sì sì sì signorina sì sì sì sì sì sì sì va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va Corso spaziale. Sono Teresa Ricci e stai ascoltando Corso spaziale. E dunque vediamo un po' cosa è successo artisticamente questa settimana. A Bologna ieri ha inaugurato una collettiva sul lavoro di Rossana Chiesi, questa gallerista di Reggio Emilia, adesso non vorrei, sto andando a memoria per cui non vorrei dire delle stupidaggini, che appunto ha collezionato Fluxus, un sacco di artisti importantissimi. Questo ha inaugurato al Mambo ieri, purtroppo non sono riuscito ad andarci, per cui mi prometto di andare a vedere, poi magari vi racconto com'era. Invece a Torino, che non c'entra, però a Torino c'è stato questo weekend una super collettiva alla Cavallerizza Reale, altrimenti chiamata Cavallerizza Irreale, con una super collettiva con un sacco di persone, di artisti famosi e non, con performance eccetera. Ai Bastioni ho visto questa performance molto interessante di Michele, non mi ricordo più il suo cognome, ahimè, vabbè, e poi ho anche sentito questo rumore. Mm. Questo era Rudy Punzo alla Cavallerizza Irreale. Coxo spaziale. Poi vi volevo anche raccontare di questo sito che ho trovato del mio amico Mark Staff Brandel, che si chiama Dr. Great Art, ed è praticamente short podcast of fun art. Praticamente è un come dice lui, un short podcast of fun art info. È un corto podcast di informazioni divertenti sull'arte. Questo, per esempio, stiamo ascoltando l'episodio 17, Provinciality in Art. Dr. Great Art, brief podcast. I hope you enjoy it and come back for each and every one. Today, my anecdote concerns provinciality in art and the art world. Yes, provinciality, a word that commands fear in the art world. The standard definition of provinciality in our context is the character of artists or art worlds or art subworlds to lack the sophistication of some urban center. Parliamo di arte provinciale, e la definizione di arte provinciale è un tipo di arte a cui manca la sofisticità dei centri urbani, dice il nostro Mark Staff Brandel. Sono piccoli podcast da 5 minuti, adesso ascoltiamone un altro po', perché poi ho intenzione di andarlo a intervistare, perché un po' parla anche italiano il nostro Mark. Better or having the styles, viewpoints, etc. considered characteristic of unsophisticated inhabitants of a province, rustic, insular. Not knowing or following what is considered currently by the consensus in or off the road. Rustico o isolato. Painting an impressionist style in Russia 100 years after its Holocaust days in Paris. Times have changed drastically. In our time, the situation has been upturned. Dice che praticamente la provincialità era quello di dipingere nel metodo di 100 anni prima, perché appunto dalle città le informazioni piano piano arrivavano alle campagne. Poi dice che la situazione è cambiata drasticamente ultimamente. Adesso andiamo a sentire perché. Provinciality is now best construed as a state of mind rather than one of geography. Adesso dice che la provincialità è diventata uno state of mind, un metodo di pensiero più che un problema geografico. Che c'è? Sto facendo coxo spaziale. Ah, hai in inglese? Dammi qua. Aspetta, Il 10. Launching. At the command launch, the robot would raise right arm and execute the command. After the missiles have been launched, it would then withdraw arm. Dice che il comando launch vuol dire lanciare. Il robot alza il braccio destro e spara e esegue il comando. Quando tutti i missili sono stati sparati, riabbassa il braccio. Dove eravamo rimasti? Provinciality in art. Sentiamo cos'altro ci racconta. Once upon a time, provinciality consisted of knowing nothing of the world at large, only looking at local art and culture. Now that has inverted. The new provinciality is a form of consensus globalism, where you are always looking elsewhere, copying New York or the Biennale or Documenta, and never really looking at the great art occurring around your own corner. Ah, questo è interessantissimo. Questo è interessantissimo perché ci coglie nel fatto. Dice, cosa è cambiato negli ultimi tempi? Che la provincialità non è più quello di non sapere quello che succede in giro per il mondo, bensì l'idea della provincialità è quella di pensare sempre che l'erba del vicino è sempre più verde, per cui è sempre più interessante sapere, copiare quello che succede a New York, oppure quello che succede alla Biennale, oppure quello che succede a Documenta, anziché guardare i talenti e la creatività che ci circonda. Questo è un problema veramente che in Italia è veramente ampio. Before I left Chicago, I saw such an attitude kill much of the creativity of the local art scene, driving the city into spot 3 after New York and Los Angeles in the United States. Dice che questa cosa è successa quando lui, prima che se ne andasse da Chicago, vedeva appunto questo succedere. LA did the opposite. Looked at and appreciated itself and rose to spot 2 in the US. London finally did it with the YBAs as well and rose to spot 2 in the world. Berlin is closing in now by being itself. And New York City has always looked at itself. Its artists are its local artists. It has had curators who show these artists, critics who write about them seriously, and so on. So do not blame them. I have also heard such complaint about New York. Do not blame them for doing it right. In Chicago, I saw... Dice che praticamente Chicago, che era la seconda città più importante per quel che riguarda l'arte contemporanea, utilizzando questo metodo provinciale di guardare sempre fuori anziché guardare se stessa, ha perso il suo essere il numero due negli Stati Uniti, mentre invece Los Angeles, che ha appunto ha guardato il suo talento locale e l'ha espanso, è diventata appunto la città numero due degli Stati Uniti per quel che riguarda l'importanza nel mondo dell'arte. Lo stesso vale per Londra, che guardando i suoi artisti ha sprigionato questa esplosione degli YBA ed è diventata la città numero due nel mondo, lui dice. Poi secondo me per qualche tempo era la città numero uno, adesso è difficile sapere. Anche Berlino ha guardato a se stessa, eccetera, e poi chissà. That not looking at your local art produced copyist work. And I saw that the click behind this thereby actually shrank. E dice che appunto non guardando quello che noi produciamo localmente produce copie di quello che stanno facendo gli altri, per cui abbassa il livello di quello che è il nostro tessuto locale. Bene, detto questo vi invito ad ascoltarvelo, non ve lo sto a tradurre tutto, vi invito ad ascoltarvelo su www.drgreatart, scritto drgreatart.libsyn, scritto libsyn.com, e questo era il nostro fantastico Mark Staff Brandon. Adesso in una delle prossime puntate cercherò di intervistarlo via WhatsApp, perché lui è un artista americano ma sta in Svizzera, e poi ci può magari raccontare anche un po' in italiano, un po' in inglese, che cosa combina. Ecco, dice di cercarlo su Facebook. Ho skippato alla fine del programma, e dice di cercarlo su Facebook, Twitter e Instagram con questa strana musica. Del resto è interessante, c'è una musica tipo l'inizio dell'uomo ragno. I due minuti di Nandi hanno una durata percepita variabile. Salve, salve. Salve, che Torino, che Torino. Salve, salve. Ah, che Torino, che Torino. Milano, Torino. Io vado a Torino. Milano, Torino. Milano lontano, io vado a Torino. Torino, Torino. Milano lontano, Torino vicino, io scelgo Torino, Torino. Genova? Per noi. Firenze? Lo sai. Pordenone, quelle cose lì? No. Alessandria? No, d'Egitto. Però il Piemonte? Piemonte... Torino? Torino. Milano, Torino, io vado a Torino, Torino, Torino! Milano lontano, Torino vicino, io scelgo Torino, Torino! Aereo? No, overbooking. Autobus? No, ma le gambe strette. Treno? No, le scarafaggi. Bici? Fatica. Vespa? Vespa... Motorino? Milano, Torino, io vado a Torino, ci vado in motorino, Torino! Ci vado in motorino, a Torino, a Torino, Torino! Pediatra? Sì, coi bimbi. Oculista? No, no, una volta ci andavo adesso. Andrologo? Ci andrò. Ortopedico? No, no, posto. Esperto delle vie respiratorie? O Torino? Milano, Torino, io vado a Torino, ci vado in motorino, dallo Torino! Milano, Torino, vado dallo Torino, ci vado in motorino, Torino, Torino! Milano, Torino, io vado a Torino in motorino, vado dallo Torino, Torino, motorino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino! Già finito? Creatività generica. Ma dicevamo, cos'è successo questa settimana? Una notizia di ieri l'altro è che Gerhard Richter, questo artista pittore molto famoso, probabilmente al momento è l'artista tedesco più famoso al mondo o tra i più famosi al mondo, ha intenzione di vendere 1 milione di euro di suoi quadri per raccimolare sufficiente denaro per comprare 100 case, per costruire un palazzo con 100 abitazioni per i senza tetto in una zona della Germania, quella a nord del Reno, della Westfalia, lo stato della North Rhine-Westfalia. Dice che la regione in questo momento ha 25.000 persone che sono in lista come senza casa. E appunto la sua intenzione è quella di fare questa donazione per questo schema pilota che è stato organizzato a Düsseldorf dal 2015, che ha cominciato dando casa a 53 persone. Per cui, siccome lui è uno delle figure più wealthiest, scrive Fries, questo lo sto leggendo da un articolo di Fries, che è una rivista d'arte contemporanea inglese, dice che siccome è uno delle più wealthiest figures, uno dei personaggi più ricchi della Germania, che ha un patrimonio stimato di 700 milioni, la sua decisione appunto è quella di aiutare i senza casa a fare questa cosa. Mi chiedo se qualche ricco artista bolognese voglia fare la stessa cosa, ma poi mi chiedo, ci sono degli artisti bolognesi ricchi? Forse anche no, o forse c'erano ma non ci sono più. Ho sposato Raffaello che faceva l'imbianchino, imbiancava le cappelle del suo paese nell'Arretino. La passione del pennello l'ha sempre avuta sin da piccino. Improvvisamente un giorno lui decide di non far più l'imbianchino. Tavolozza, tinte, un bel pennello acquista e facciamo un bel provino. Sì, un bel provino coi fiocchi per un quadro che piacerà a tutti. Che meraviglia il mio Raffaello quando lavora col suo pennello, mentre mi pitta sulla soffitta. Che meraviglia il mio Raffaello quando lavora col suo pennello, mentre mi pitta sdraiato in posa sul sofà. Quando Raffaello pitta, lui mi mette in posizione e si raccomanda sempre che io presti molta attenzione. Io invece mi vergogno perché davanti al suo garzone mi sistema e con la foglia copre il punto dove mai non batte il sole e comincia a pennellare allegramente molto svelto con calore. Sistemata la posizione lui pennella sino alla fine. Che piacere posare per lui. Che meraviglia il mio Raffaello quando lavora col suo pennello, mentre mi pitta sulla soffitta. Che meraviglia il mio Raffaello quando lavora col suo pennello, mentre mi pitta sdraiata in posa sul sofà. divenuto ormai famoso, il mio bravo Marittino. Per quel quadro con la foglia, riconosciuto molto carino, nonostante i 70 anni mi fa posare per un pochino. E col suo pennello preferito, spelacchiato e molto arrugginito, lui vorrebbe pennellare come quando noi facemmo il provino. Povero Raffaello invecchiato ed avvilito, vorrebbe pennellare come quando facemmo quel quadro con la foglia di fico. Ormai invecchiato il mio Raffaello ed avvilito col suo pennello, perché non pitta mai più in soffitta. Ormai invecchiato il mio Raffaello ed avvilito col suo pennello, perché non pitta come faceva tempo fa. Questo era un fantastico 45 giri di una certa Rosina, e il titolo appunto era Il pennello di Raffaello. Anche questo, anzi ringrazio il mio amico NNT, lo chiamiamo così oggi, che mi ha procurato il link per questo vinile che appunto avevamo trovato alla, in una installazione alla Cavallerizza Reale di Torino, che ha colto la nostra curiosità. Mentre invece io, sempre all'interno di questa installazione, dove c'erano appunto tutti questi vinili appesi al muro e l'invito a suonarli, io ho alzato gli occhi e il primo che ho incontrato era Pietre di Antoine, non so se ce lo ricordiamo. Non so se ve lo ricordate, anzi sicuramente no, io me lo ricordo perché tra l'altro, se non sbaglio, era un 45 giri del 1967 o forse 68 in cui, con cui lui partecipò a Sanremo, che era in realtà la musica era completamente diversa, ma era una sorta di rifacimento di una canzone di Bob Dylan che adesso non mi viene in mente, come quello che diceva Everybody Gets Stoned, non mi ricordo più come si chiamava. Comunque oggi veramente siamo un po' così, il nostro cervello sta vagando per altri lidi. Invece appunto, dicevo, appena ho alzato gli occhi ho visto il primo 45 giri, 7 inches, che ho visto era Pietre di Antoine, e mi sono ricordato del suo retro, perché quello era un vinile che mia nonna aveva, e aveva un mangianastri, per cui lo infilavi con anche un po' di cattiveria, lo infilavi dentro questa scatola e poi si metteva a girare, vedevi giusto un lembo di 45 giri che girava. Mi ricordo benissimo che mi piaceva da matti il retro di Pietre, che era molto più dolce e così, e dunque vi faccio sentire anche questo, si chiama La felicità. Dimmi, babbo, cos'è la felicità? Figlio mio, è un frutto che mangi solo in libertà. Dimmi, babbo, dove sta questa libertà? Sta di casa in un paese che si chiama verità. Dimmi, babbo, alla mia età posso andarci anch'io? Se ti porti la bontà per bagaglio, figlio mio, dimmi, babbo, la bontà quanto peserà? Pesa quanto il mondo, ma dà coraggio a chi ce l'ha. Ma il coraggio, babbo mio, a che servirà? Lo vedrai nel tuo cammino verso la felicità. La felicità. dovrei essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. L'angolo della menzione. Ebbene sì, eccoci all'angolo della menzione. Dunque, questa settimana non c'è tantissimo, ma domenica 27 maggio c'è il Flip Market Crazy May Edition al Micasa, ed è un Flip Market, il primo flea market di Bologna dove vintage, second hand, street food, musica e divertimento si incontrano in un'unica piazza. Il Sunday Village nasce dall'esigenza di mettere a testa in giù le abitudini consuete della domenica, ribaltare, capovolgere, sconvolgere sono gli stand up di Flip Market. Questo è al Micasa dalle 11 alle 9 di sera di domenica in via Emilio Zago 14. Olè! Invece lunedì 28 abbiamo Roberta Giallo in concerto al Bravo Caffè. Questo alle 9.45, Roberta Giallo la conosciamo perché l'abbiamo sentita spesso qui a Coxo Spaziale, e anzi ne approfitto che era una cosa che volevo fare già da un po', per andare a prendere una vecchia registrazione di lei che canta dal vivo qui a Coxo Spaziale con me e Fedra, che facciamo gli urletti di felicità. Ascoltiamola. Amo le cicale che non sanno mai che fare, non le trovo dispettose, a me sembra dignitose, a me piace il loro canto, no, non credo sia un tormento, cantano le note al vento senza avere mai un rimpianto. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che sei ormai non è, gli amori sono passeggeri. Da di da di da da di da da da da da di da di da di pa pa pa da di di da di di da da da da da da di di da di di da da da da du du da du du du du du du du du du du du. Io amo le cicale e non credo che sia male spendere così del tempo, non avere un impegno, io le invidio se mi annoio, io le invidio quando piango, no, non sanno mai tediarsi e non piangono mai, ci pensi. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri. Invece da giovedì 31 cominciano i giovedì estivi a Villa Serena. Hola si chiama, è il giovedì che ti accompagnerà durante tutta l'estate nel grande giardino di Villa Serena a Bologna, a due passi dal centro di Bologna, adesso due passoni, nel senso che sono 2,5 chilometri dal centro di Bologna. Dopo una stagione passata free young fun bla bla bla, ok, praticamente ingresso gratuito, Villa Serena, via della Barca 1, da questo giovedì della settimana prossima si parte e con le serate estive, ed effettivamente dal caldo che abbiamo visto in questi giorni possiamo dire abbastanza soavemente che l'estate è arrivata. Panam, panam, panam, belle femme au regard de velours. Panam, panam, panam, j'étais mon amour. many personally, and the blessings and the curse, it can be in the red castle. I feel like a prince chasing sweet taboos and I sing. Chinese and Nigerian ladies fighting over turf, harsh exchange of words, but in the end nobody wins. Your sacred heart sees everything. Way up there, I dream like a king. No, we're not nice, we're keeping it real. Deal with it, feel how you feel. Not punctual, but always on time. Don't talk to me the wrong way. It's functional, if it's beautiful, don't care what nobody wants. Panam, panam, panam, je te hais, mon amour. Panam, panam, panam, assis à l'ombre de tes tours. Panam, panam, panam, je te hais, mon amour. Paris la nuit raconte son histoire. Elle fascine le kidam qui en use les trottoirs. C'est lors de ses insomnies que ses secrets se dévoilent. Quand la lune teinte le tout d'une lumière pâle. Je suis né dans tes bras, j'ai dormi dans tes draps. C'est pourquoi j'ai le goût de parler de toi. J'ai de souvenirs à tous les âges, des millions de phases et des milliards de visages. Tu cristallises tout, les joies comme les peines. Canalise les courants, attire les extrêmes. Il y a de la vie jusque dans tes sous-sols. Et cette énergie folle, comment te le dire, Paris aspire. Depuis des siècles, c'est où elle inspire les peintres et les poètes. Well, j'aime quand la ville se met en scène et qu'elle donne tout comme le fiable. Laisse-moi chanter pour elle. Panam, panam, panam, belle femme au regard de velours. Panam, panam, panam, je te hais, mon amour. Panam, panam, panam, assis à l'ombre de tes tours. Panam, panam, panam, je te hais, mon amour. Questo era Dana Kill Meets On Dub Ground, e sempre dalla nostra simpatica Broom Rush Promotions, che è un'etichetta, no, sì, è un'etichetta tedesca che ogni tanto ci spedisce, non si sa bene perché, dei pezzi reggae, e noi ogni tanto, non si sa bene perché, li facciamo ascoltare su Coxo Spaziale. Cosa dire, come avete sentito, stasera non avevo tanta voglia di parlare e così non l'ho fatto. Crushing just how heavy things can get. Thousand albatrosses around my neck. Feeling like I'm the only one who's down on the floor. But I don't have to be lonely. Need the weight of the world, 'cause I see you, and you see me too. It pulls me through. Watch you do what you do, 'cause you've got demons to fight, wrong against right for the rest of your life. And I'll have battles to win without and within for as long as I'm in this skin. I hear a lot about what I should be. It's weird that no one thought of asking me. Got me of my life. You have battles to win without and within for as long as you live. Of our lives, we'll have battles to win without and within for as long as we live. Ebbene sì, anche questo maggio è passato. La prossima puntata di Coxo Spaziale sarà il 1° giugno. Sperando che questo mese ci porta un po' di felicità in più, di non niente, presente? Potrei anche fare un corso di speakeraggio dopo questa frase. Molto bene, vi saluto, è stato bello, pianto tanto, vi lascio con una canzone così, un po' così. Questo era Coxo Spaziale, io sono Stefano W. Pasquini, ci risentiamo forse, sì. Se ne avrete voglia, venerdì prossimo, tutti i venerdì dalle 8 alle 9 di sera su Radio Città Fujiko. Buona serata, buon weekend, ciao ciao. Lo vedi tu com'è? Come si deve fare? Inutilmente, malamente, per amore, battere e levare. Ma non lo vedi questa strada dove va, dove mi può portare? Lo vedi, siamo come cani, senza collare. So che tu lo sai perfettamente come ti devi comportare. Abbiamo avuto tempo sufficiente per imparare. E poi lo sai che non vuol dire niente dimenticare. E in più lo sai che anch'io lo so, e quello che non so lo so cantare. Lo vedi tu com'è? È prendere e lasciare. Praticamente solamente per amore, battere e levare. Ma non lo vedi come passa il tempo, come ci fa cambiare. E noi restiamo come cani sempre, senza padroni. E so che tu lo sai perfettamente come ti devi comportare. Abbiamo avuto tempo sufficiente per imparare. E poi lo sai che non vuol dire niente dimenticare. E poi lo sai che anch'io lo so, e quello che non so lo so cantare. vedi tu com'è. Occorre fare, disfare, praticamente, crudelmente, per amore, battere, levare. Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare. Lo vedi, siamo come cani davanti al mare.